Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Chi l'avrebbe mai detto che un giorno vi avremmo portato fino in Corea del Sud? Credeteci, tutto è possibile sulle frequenze di Radio 24. Tra Busan e Sydney, oggi Generazione Mobile più che mai internazionale si sposterà nella parte orientale di questo nostro piccolo pianeta. Portata principale nel nostro menù, l'intervista con un giovane docente universitario, nonché nostro console onorario nella Sud Corea. Da lui il nostro testimone della settimana. Aspettatevi una miniera di informazioni utili su come valutare un possibile futuro di studio o professionale a quelle latitudini. In scaletta anche le anticipazioni su lavoro e carriera all'estero curate dal Sole 24 Ore del lunedì, come pure le ultime segnalazioni europee di Eures. A chiudere vi portiamo in Australia, meta che registra un interesse sempre crescente da parte dei giovani italiani, anche stavolta tante indicazioni preziose su come pianificare un trasferimento down under. Generazione Mobile. I dati sono al centro del nostro spunto settimanale con cui diamo il via ufficiale alla trasmissione. Oggi vi segnaliamo gli ultimi numeri contenuti nel rapporto Italiani nel Mondo, reso noto martedì. Continua e si rafforza la fuga dei connazionali all'estero. Nel 2016 ben 124.000 persone sono ufficialmente espatriate, in aumento del 15% rispetto al 2015. E ad aumentare sono soprattutto i giovani, oltre il 39% di chi ha lasciato l'Italia nell'ultimo anno ha tra i 18 e i 34 anni, più 23%. Dal 2006 la mobilità italiana aumentata del 60% ed è il Regno Unito, nonostante la Brexit, il paese che ha visto aumentare maggiormente le iscrizioni all'AIRE. Più della metà degli italiani residenti all'estero provengono da regioni del sud. Toolbox. A Toolbox tornano le anticipazioni del Sole 24 Ore del lunedì. Ascoltiamo allora cosa c'è nel menu odierno della nostra cassetta degli attrezzi insieme alla collega Francesca Barbieri. Buongiorno a Francesca Barbieri. Buongiorno a voi. Allora Francesca, oggi, come ogni due settimane da settembre a questa parte, ci dai una succosa anticipazione su delle opportunità che voi pubblicherete poi lunedì nel inserto Lavoro e Carriere del Sole 24 Ore del lunedì e che riguardano la possibilità di fare lavoro, studi, impresa all'estero. In particolare oggi su cosa ci concentriamo? Sì, allora ci concentriamo su una opportunità che viene proposta dall'Unione Europea attraverso il programma Erasmus Plus ai giovani neodiplomati. Il progetto si chiama EarthCore. A chi è rivolto? Tu l'hai detto neodiplomati, quindi parliamo di ragazzi molto giovani, intorno ai 18 anni. Si possono candidare a questo programma i neodiplomati entro un anno dal diploma e devono avere uno specifico indirizzo di studio che può essere tra questi. Allora, meccanica, meccatronica ed energia, elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, agraria, agroalimentare e agroindustria, costruzioni, ambiente e territorio. Dove vanno e quindi poi anche a fare cosa? Allora, vanno per 3 mesi all'estero a svolgere un tirocinio all'interno di aziende che operano nell'ambito delle energie rinnovabili. I paesi di destinazione sono la Grecia, il Portogallo, il Regno Unito, la Spagna e la Repubblica Ceca. Molto interessante, perché parliamo di un settore che è già il futuro e che quindi può anche, grazie a un'esperienza all'estero, dare delle opportunità importanti a chi poi da grande o comunque dopo l'università o anche senza università potrà avere delle opportunità di lavoro in questo settore specifico, quindi ricordiamo energie rinnovabili. C'è un punto importante, sono le borse di studio, perché chiaramente occorre anche mantenersi all'estero. Qui come siamo messi? Allora, siamo messi così che ci sono 66 borse di studio a cui ci si può candidare entro il 27 di ottobre e queste borse coprono le spese di viaggio e offrono tutta una serie di coperture alle spese di vitto, di alloggio, per inserirsi nell'organizzazione ospitante, l'assicurazione sanitaria e anche alcune spese relative appunto a eventuali materiali necessari per lavorare, per studiare in queste realtà. Quindi insomma, occhio a questa opportunità che troverete, lo ricordiamo, dopodomani, lunedì, all'interno del Sole 24 Ore del lunedì, inserto Lavoro e Carriere, insieme anche a altre opportunità, immagino, Francesca, non solo all'estero ma anche in Italia. Sì, esattamente. Per chiudere però, un dato fondamentale e imprescindibile, come candidarsi se si hanno tutti i requisiti? Allora, per candidarsi, lo ricordo, il termine di scadenza è il 27 di ottobre, va inviata un'email con il curriculum a questo indirizzo, allora aircore@mondelli.gov.it. Il testimone. Il testimone della settimana è non solo un docente universitario in Corea del Sud, è anche un agente consolare onorario per l'Italia. Vincenzo Campitelli, 37 anni, ha tanti consigli e informazioni utili da dispensare per chi intende programmare un futuro in Estremo Oriente. Buon pomeriggio, Vincenzo. Buon pomeriggio a te, Sergio. Partiamo subito con la domanda più difficile. Come sei finito a lavorare come docente universitario in Corea del Sud? Qual è stato in estrema sintesi il tuo percorso? Ma ho sempre avuto una predilezione per le lingue e le culture straniere, in particolar modo per quelle extraeuropee. Dopo il liceo linguistico mi sono iscritto all'Università di Roma La Sapienza, presso la quale mi sono laureato in lettere e successivamente mi sono specializzato presso il Pontificio Istituto Orientale in lingue antiche. Poi, nello stesso periodo, più o meno qualche mese dopo, sono stato contattato dall'Università di Lingue Straniere di Busan, che all'epoca cercava un lettore di italiano. Grazie alla laurea in lettere vecchio ordinamento e agli esami di linguistica, sono stato assunto per quella che inizialmente era una semplice esperienza, ma che nel tempo si è tradotta in un progetto di vita. Allora, Vincenzo, a chi consigli una carriera in Corea del Sud? Quali sono le attitudini base da avere nel proprio portfolio? Consiglio lo indirizzo a tutti quei giovani in cerca di esperienze con realtà culturali e sociali anche agli antipodi della propria. Attitudini base sono spirito d'adattamento, continuo desiderio di apprendimento e rispetto delle gerarchie sociali. Questo è importante effettivamente, anche perché siamo in una cultura ben diversa dalla nostra. Perché allora... Meta gerarchica. Esatto. Girando la domanda al contrario, tu definisci la Corea del Sud come una meta per giovani da tutto il mondo, almeno negli ultimi anni. Perché? Sempre più alto il numero di studenti che per studio o working holiday punta alla Corea del Sud come meta preferenziale. A questi si aggiunge un numero importante di giovani laureati da tutto il mondo che seguono nel paese programmi di internship presso alcune aziende straniere presenti in loco. Per chi vuole trasferirsi in Corea del Sud, Vincenzo, il primo ostacolo potenziale è la lingua. Come superarlo? Indubbiamente la lingua è un ostacolo in sé. Il coreano poi dal punto di vista linguistico si avvicina al giapponese e quindi già questo in partenza lo rende una lingua ostica. Posso dire però che con dedizione si raggiunge un livello di conoscenza linguistica accettabile. Io poi ne sono la testimonianza diretta. È possibile farlo. Solo qui in Corea. È possibile farcela. C'è anche il visto, ostacolo da tenere poi sempre in considerazione quando si va a vivere fuori dall'Unione Europea. Che tipo di visti, Vincenzo, sono disponibili per risiedere in modo stabile a Seul e dintorni, sia che si voglia studiare o sia che si voglia lavorare? Per motivi di studio e di lavoro è possibile richiedere i visti all'Ambasciata della Repubblica di Corea a Roma o, in alternativa, anche al Consolato Generale di Corea a Milano. Poi, una volta giunti nel paese, occorrerà richiedere, entro 90 giorni, un nuovo documento supplementare chiamato Alien Registration Card. Corrisponde grosso modo al permesso di soggiorno italiano e tempo più o meno 2 settimane si riceverà direttamente a domicilio. Dopodiché si può risiedere per un periodo di tempo ragionevolmente lungo? Sì, in base all'estensione del contratto di lavoro o al percorso di studi che si intende seguire. La geografia adesso. Tu risiedi a Busan, non a Seul, questo è importante. Vale la pena, ti chiedo, considerare città alternative alla capitale, che ovviamente è anche il centro più conosciuto all'estero? Indubbiamente. Spesso, ecco, anche la Corea del Sud è sinonimo di Seul e questo riflette anche un po' la natura capitale centrica del paese. Se poi la maggior parte delle opportunità risiedono a Seul, anche altre città meritano attenzione. Busan, la città in cui risiedo io, è importante soprattutto per ciò che riguarda lo shipping e il settore navale. Altre città inoltre come Daegu sono rinomate per le industrie tessili e una menzione speciale la merita anche Daejeon, che è un centro importante soprattutto per la ricerca scientifica e tecnologica. Allora, ribadiamo una cosa importante. Tu non sei solo un docente universitario, ma sei anche console onorario d'Italia. Di conseguenza hai una visuale privilegiata sul mondo della nostra emigrazione all'interno del paese. In primo luogo, hai dei numeri su quanti italiani vengono a studiare o lavorare ogni anno in Sud Corea? Ma secondo i dati, cito quelli dell'ambasciata, fino al 31 dicembre dello scorso anno i connazionali residenti erano esattamente 440, mentre fino ad oggi il numero è salito a 535 unità. Quindi un incremento c'è stato anche, diciamo, di quasi 100 connazionali in più negli ultimi 10 mesi, almeno quelli che si sono registrati ufficialmente all'AIRE in Corea del Sud. Generazione Mobile si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Generazione Mobile. studiare e lavorare nel mondo. Bentornati a Generazione Mobile, il programma di Radio 24 che vi fornisce tutti gli strumenti utili per avviare la vostra nuova vita all'estero. Al centro di questa puntata la storia di Vincenzo Campitelli, 37enne docente universitario e console onorario italiano in Corea del Sud. Una mezz'ora di consigli utili e imperdibili quella odierna per chi intende tentare la sorte a Seul e dintorni, o per chi neppure la immaginava, ma ora un pensiero ha deciso di farcelo. Riprendiamo allora l'ascolto. Generazione Mobile. Quali sono le domande e le richieste di informazioni più frequenti che ti vengono poste? Ce ne sono proprio di diverse. Le domande appunto sono molteplici, riflettono anche le diverse esigenze dei connazionali. Andiamo da rilascio di certificazioni e legalizzazioni, poi anche ad informazioni di carattere più pratico, relative, non so, a scuole, ospedali, anche agenzie di traduzione. Perché studiare in Corea del Sud, magari per un master o per un dottorato? La Corea del Sud è uno di quei paesi che al mondo investe più di tutti nel campo dell'educazione e della ricerca, quindi questo rende le università del paese autentici centri d'eccellenza, e inoltre oggi è consuetudine presso queste università incontrare giovani provenienti da tutto il mondo. Ecco, tra l'altro importante, ci sono anche delle borse di studio per under 40, nello specifico? Per le borse di studio occorre innanzitutto tenere presente che manca relativamente poco, in quanto i bandi dovrebbero uscire più o meno a febbraio. È abbastanza facile tenerle d'occhio, sufficiente monitorare tre importanti siti. Innanzitutto quello del Ministero degli Affari Esteri italiano, il sito del NIED, che è il National Institute of International Education, e il sito Study in Korea. E quanto riescono a coprire economicamente queste borse? In primis, diciamo che le borse di studio governative coprono tutte le 24 mensilità previste per il corso di master e le 36 per il dottorato. Sono però precedute da un periodo di studio della lingua che può andare grosso modo dai 12 ai 18 mesi. A questo poi dobbiamo aggiungere il corrispettivo di circa 650 euro mensili. Parliamo adesso di lavoro. Chi, secondo te, può concretamente ambire a venire a lavorare in Corea del Sud? Ma chiunque abbia voglia di mettersi in gioco in una realtà lavorativa totalmente diversa da quella occidentale e che predilige lo spirito del gruppo rispetto all'iniziativa del singolo. I settori presso i quali soprattutto i connazionali possono provare ad impiegarsi sono soprattutto quelli relativi all'ambito scientifico e alle nuove tecnologie. Qual è la trafila migliore per avviare invece un percorso in ambito accademico come hai fatto tu? Parliamo per il master e anche per il dottorato, il consiglio migliore che mi sento di dare è quello di monitorare le pagine internet delle diverse università su cui poi vengono segnalate le application form. Passo successivo consisterà in un colloquio con i diversi docenti di commissione che può tenersi anche in inglese. E nel settore privato? Le aree che offrono le maggiori possibilità sono quelle della scienza, anche soprattutto delle biotecnologie, imprenditoria elettronica e negli ultimi anni anche il settore medico. In alcune città inoltre, ad esempio il caso di Busan, ottime possibilità vengono offerte anche dai settori dello shipping e dell'ingegneria navale. Un tuo personale consiglio, meglio candidarsi direttamente presso, che so, una multinazionale coreana oppure passare attraverso una società italiana o europea? Senza dubbio la seconda opzione. Per uno straniero comunque non è semplice farsi assumere da un'azienda coreana, poiché la legislazione attuale impone al titolare di un'azienda coreana di dimostrare l'impossibilità nel trovare personale coreano competente in grado di svolgere le stesse mansioni per le quali in teoria verrebbe assunto uno straniero. E temo non sia purtroppo l'unico paese al mondo a farlo. Una nota sulle tensioni è inevitabile, c'è anche chi scrive a Generazione Mobile @radio24.it chiedendo: ma sto pensando di andare in Corea del Sud, però ci sono forti tensioni geopolitiche, allora che atmosfera si respira lì? La situazione al momento è totalmente sotto controllo. Si sa che la Corea del Nord è un vicino che, così un po' scherzosamente, possiamo definire abbastanza irrequieto, tuttavia non esistono in questo momento pericoli per ciò che riguarda la sicurezza dei cittadini e del paese stesso, inteso come Corea del Sud. E per te, per chiudere e salutarti, la nostra domanda di rito, Vincenzo: quale primo consiglio pratico daresti a un giovane coetaneo che sta pensando a un espatrio? Ma innanzitutto lasciarsi alle spalle i timori, incluse quelle apparenti indecisioni che poi impediscono di compiere il grande passo verso una meta estera. E invito a vivere in pieno nuove esperienze sotto il profilo accademico, professionale, ma anche e soprattutto dal punto di vista umano. Job Abroad. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Tornano le offerte e le iniziative in Europa insieme all'agenzia Eures Italia, che ogni due settimane ci aggiorna sulle migliori opportunità disponibili. Roberta Scarpa di Eures Italia. La Swedish Week è un evento promosso dalla rete Eures Italia che vede coinvolte tre regioni italiane, il Veneto, l'Emilia-Romagna e l'Abruzzo, che collaborano nell'ambito del protocollo d'intesa sottoscritto dal coordinamento nazionale EURES AMPAL con i servizi per l'impiego svedesi. Il protocollo si pone l'obiettivo di facilitare la mobilità lavorativa tra Italia e Svezia attraverso l'organizzazione di eventi di informazione e reclutamento. Nella settimana dal 6 al 10 novembre, nel corso della Swedish Week, i consulenti EURES svedesi e italiani incontreranno i candidati delle seguenti aree: area sanitaria, medici e infermieri, area insegnamento, insegnanti di scuola primaria, area scientifica, biotecnologi, farmacisti, biologi e ingegneri IT e area ristorazione, cuochi e chef qualificati. Tutti i candidati e le candidate devono possedere un titolo di studio adeguato al ruolo, esperienza, seppur minima, nel profilo ricercato e una buona padronanza della lingua inglese. In alcuni casi, inoltre, sono previsti corsi di lingua svedese organizzati dai datori di lavoro stessi. Le selezioni avranno luogo per il Veneto il giorno 7 novembre 2017 presso la sede della città metropolitana di Venezia, via Forte Marghera 191, in contemporanea all'inaugurazione del Salone dell'Orientamento fuori di banco. Per l'Emilia Romagna l'8 novembre 2017 a Bologna e per l'Abruzzo il 10 a Pescara presso la sede della Regione Abruzzo. Il programma per tutte le sedi prevede la presentazione delle condizioni di vita e lavoro in Svezia fatta dai consulenti EURES svedesi, con un focus particolare sulle offerte presentate per le singole aree professionali. La seconda parte della giornata sarà invece dedicata ai colloqui con i candidati selezionati. Ricordo che le modalità generali per candidarsi ai vari eventi in Italia saranno disponibili sul portale dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro www.ampal.gov.it. In particolare, per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum in inglese agli indirizzi presenti nel portale AMPAL entro e non oltre il 2 novembre 2017. Per i candidati interessati a partecipare all'evento del 7 novembre a Mestre, ricordo che tutte le informazioni su come partecipare e candidarsi saranno disponibili a partire da lunedì 23 ottobre nel portale www.cliclavoroveneto.it e sul portale della Città Metropolitana di Venezia www.cittametropolitana.ve.it, oltre che nei vari social con l'hashtag Swedish Week. Internet Point. E siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Tempo di emigrare in Australia, quantomeno sulle nostre frequenze radiofoniche. Non dimentichiamo infatti che, nonostante le crescenti restrizioni sui visti imposte dal governo australiano, il mondo Down Under resta di grande moda tra i nostri giovani e c'è chi offre consigli pratici su come trasferirsi agli antipodi, come fa Claudia Ricci, ideatrice del blog Diario dal Mondo. Diario dal Mondo nasce ormai quasi 6 anni fa come, diciamo, risposta al mio arrivo in Australia e al desiderio di voler raccontare questa mia vita down under agli amici e alla famiglia che avevo lasciato in Italia. Che Australia racconti nel tuo blog? Sono partita da Adelaide e ho raccontato il mio primo periodo ad Adelaide lavorando nel mondo dell'ospitalità e con vari problemi di visto, per poi spostarmi a Sydney dove ho intrapreso un dottorato di ricerca e quindi ho avuto modo di raccontare questa seconda fase della mia vita australiana qui a Sydney con questa nuova occupazione. Quanto stai vedendo crescere il fenomeno dell'emigrazione di giovani italiani in Australia? L'ho visto aumentare in modo esponenziale. Prima di trasferirmi in Australia già la frequentavo e all'epoca gli italiani di questa generazione erano veramente pochi. Da quando mi sono trasferita invece 6 anni fa, il numero di italiani, ma non solo, diciamo di europei, è cresciuto veramente in maniera esagerata. Tra i consigli che dai all'interno del tuo blog ci sono anche quelli per trovare lavoro. Come fare allora? È un argomento ostico con cui mi sto ancora purtroppo dibattendo giornalmente. È diventato sicuramente più difficile trovare lavoro in Australia, trovare un lavoro duraturo nel proprio campo. C'è veramente tantissima concorrenza che non c'era anni fa. Purtroppo l'Australia ha un sistema abbastanza, diciamo, trasparente ma rigido. Cioè, per fare domanda di lavoro bisogna seguire delle regole precise, bisogna avere il curriculum scritto in un certo modo, bisogna scrivere una lettera di presentazione che rispetti determinati canoni e rispondere a determinati